Kellogg, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Cono croccantino, deliziosi croccantini di mandorla caramellata in una morbida crema alla vaniglia. Alessia, Martina, Nicole, Roberta. Vernice sulla ruggine senza carteggiare e non cola. Cosa state facendo? Sto verniciando e Giovanna mi aiuta. Brava Giovanna, brava. Let's start jamming together. La frutta la senti veramente. Nuovo Fruit Passion. Sopra una deliziosa velouté di frutta, sotto la cremosità del bianco. Fate l'amore con il sapore. Io di patate ne ho viste tante, gustose, fragranti. Non ce la faccio a stare senza. Le ho provate tutte. Americane, tedesche, olandesi, grandi e piccole. Con la sorpresa, le prendevo così, senza tanti complimenti, anche tre alla volta. È chiaro che lo spot con Rocco Siffredi, che gioca sul doppio senso tra le patate, poi le patate con la sorpresa per fare ancora un più ardito salto mortale, rappresenta l'apoteosi di una bieca maniera di considerare le donne legandole a un prodotto pubblicitario. Ma è talmente paradossale da farsi giustificare nel suo essere grottesca, vorrebbe essere un gioco, ma probabilmente non offende nemmeno nessuno. Però invece al contrario esiste un sentire diffuso che è sempre più corposo. Devo dire onestamente che emerge, si riassorbe a seconda della visibilità di alcune vicende legate alla politica e alla intoppi personali giudiziari di noti personaggi della politica, però devo dire che in realtà c'è un senso da tenere in considerazione sul fatto che in realtà molte donne si sentano offese, indignate, si sono stancate, sono stufate, anche quelle che non lo fanno per politica, per ideologia, per una sorta di loro vocazione comunque a porre come problematico l'abuso dell'immagine della donna, ma si sentono stufate da quanto la pubblicità abbia piacere o consuetudine o maniera insistente di considerare il corpo delle donne come una sorta di neutro supporto, come se non ci fosse dietro una testa un essere pensante, per appoggiarci comunque dei prodotti da consumare. I prodotti si consumano se si consumano su una tavola apparecchiata il cui elemento costitutivo è la carne di una donna. Beh, quanto questo in realtà è vero? Quanto esattamente la pubblicità, in percentuale, usa biecamente il corpo della donna come messaggio allettante per vendere i propri prodotti? Cosa ne pensano realmente le donne? C'è un campione di donne più banalmente calate nel quotidiano, che si vedono irraggiungibili modelli, che vendono profumi, vendono abiti, vendono biancheria, vendono qualsivoglia oggetto, fino anche a degli oscuri presidi per il controllo gastroenterico, capito? E dicono: ma che bisogno c'è di far vedere un sedere, dei seni, una donna in atteggiamento ammiccante, quando poi si vende magari, che ne so, un accessorio per l'auto o un semplice oggetto di consumer tecnologico. Beh, di tutto questo vorrei parlare questa mattina e vorrei soprattutto interrogare il mio pubblico. Siete convinti che in realtà si possa fare a meno di questo abuso dell'immagine del corpo femminile? O siete altresì convinti che la pubblicità comunque abbia bisogno, per tenere oliata la grande macchina dei consumi, di usare anche questi sistemi? Vorrei che ne parlaste con tranquillità, con leggerezza, esprimeste per quanto possibile, soprattutto voi donne che mi ascoltate, sono molto curioso di sentire il vostro parere su questo tema che oggi appassiona molte persone, anche in maniera molto veemente. Paola Napolitani, buongiorno. Paola Napolitani, l'abbiamo sentita più volte, ospite di questa trasmissione, la considero una persona saggia, si occupa di pubblicità da tanti anni e poi anche una donna. Collabora con l'agenzia Dolce Advertising, ha ideato e realizzato tante campagne pubblicitarie, ricordo quella del Dado Knorr, delle Sottilette, lo spot del Ferrero Rocher, quindi ti sei mai trovata di fronte al problema di decidere come donna se quello che tu scrivevi, mettevi nero su bianco, potesse in qualche maniera offendere altre donne? O un tema molto moderno, che non vi ponevate il problema 10 anni fa, tanto per essere chiari? No, il tema è intanto è un tema che ti poni sempre, quello dell'etica, secondo me. 10 anni fa, 20 anni fa, oggi, mentre lavoriamo, come in tutti i lavori, anche in pubblicità, bisogna avere un'autoregolamentazione. Il rispetto degli altri, secondo noi, per chi fa questo lavoro è fondamentale. Cioè, ma sei mai stata attaccata a te? Sì. Nessuno ha mai avuto da dire sulle pubblicità che tu avevi pensato e immaginato? No, mi è capitato però proprio ultimamente, e lì mi è dispiaciuto di sentire tu hai parlato prima del Dado Knorr, che fu una pubblicità, una campagna molto famosa, era quella del bambino che diceva guarda papà un pollo, era una campagna tra virgolette all'inglese molto satirica, dove una donna visibilmente, forzatamente, come dire, dispiaciuta, portava sempre in tavola delle cose a forma di cubo, di cibi a forma di cubo, perché sapevano di dado. Ho sentito il parere alcuni mesi fa, proprio alla vostra radio, di una commentatrice che diceva ecco l'esempio della povera casalinga offesa e vilipesa, questo è offensivo per la donna. Allora, cioè di adattare ogni oggetto commestibile a forma di dado, perché il dado piaceva in famiglia. Praticamente, poiché la povera signora usava il dado sbagliato, i suoi cibi erano a forma di dado. Sapevano allora, di dado, facevano schifo, ecco, questo era esatto, il senso. Facevano schifo. Allora, dove sarebbe stato il mio errore? Sarebbe stato nell'inventarmi una protagonista che veniva mostrata in modo offensivo. Era in realtà una cosa che faceva molto ridere, ha fatto ridere perché era molto ironica e molto autoironica. Ma sai che allora, l'ironia è una delle più rare qualità che trovi nell'umanità? Ecco, secondo me quando appunto parliamo di queste cose dobbiamo stare attenti a non confondere quello che è la vera offesa. E allora torniamo alla realtà di oggi. Sì, ci sono delle cose che io vedo in giro che non avrei mai fatto e che non avrei mai pensato che un giorno avremmo visto. Cioè vedo che il corpo femminile in alcune espressioni, non parlo solo della pubblicità, io parlo delle serie televisive a volte, cioè, vedo delle cose che noi negli anni 90 non avremmo mai fatto. Beh, e questo mi dai atto che esiste uno slittamento del senso comune del pudore, della percezione del lecito e dell'illecito. Questo, diciamo, nella fiction lo considero un discorso a parte. Io mi vorrei fermare proprio alla pubblicità. Quanto la pubblicità necessariamente deve far leva su questo tipo di messaggio? Perché oggi è sul tavolo, anche da parte di molti pubblicitari, di molte agenzie, una sorta di proposta di revisione etica della pubblicità, di mettere i braghettoni alla pubblicità, di fare una pubblicità che sia in realtà una pubblicità di taglio meno aggressivo, meno sensuale, ma non ho capito cosa ci si può mettere per presentare un prodotto. Bruno Ballardini, buongiorno. Buongiorno a tutti. Sentiamo anche un altro versante, poi avremo molte persone che sono nel campo, però dite la vostra, vedete cosa pensate, cos'è che vi ha particolarmente colpito, soprattutto le donne che hanno facoltà piena di parlare questa mattina, chiamino l'800240024. Ballardini è un esperto di marketing, di comunicazione strategica, ha scritto vari libri, un illuminante Gesù e saldi di fine stagione, perché la Chiesa non vende più, PM Edizioni, che è un libro, si è rivelato profetico poi, perché in realtà la Chiesa poi ha rivisto completamente la sua strategia di comunicazione. Non so se Papa Francesco abbia presente il manuale Ballardini, ma comunque ha agito in quella direzione, ha polarizzato il messaggio su un messaggio molto più chiaro, molto più meno carico di ambiguità. Morte la pubblicità, che ha una nuova edizione aggiornata, che è il testo classico di Ballardini, un testo di qualche anno fa, ma è ripubblicato oggi da Lupetti. Allora Bruno, tu come la vedi? Vediamo anche il punto di vista, tu che hai visto, analizzato, osservato la pubblicità. Ma allora, esiste veramente questo scempio pericoloso e pernicioso? E poi c'è anche un rapporto causa-effetto, molti dicono c'è una violenza generalizzata, diffusa, in grande aumento verso le donne, perché le donne sono vilipese, considerate oggetti, soprattutto dalla pubblicità. Ma devo dire che spezzo una lancia a favore dei colleghi. La pubblicità non è particolarmente portatrice di questo scandalo, perché sono i media nel loro genericamente hanno aumentato la quantità di violenza, perché l'ambiente trasmette violenza. Esiste una violenza generalizzata, un'aggressività che io definisco la guerra fra poveri, data da una condizione che noi tutti sappiamo. Come si esprime, come si scambia, fa sì che poi finisca fatalmente anche nei media. La pubblicità, adesso ultimamente c'è una benemerita, nobile azione da parte dell'istituzione che dovrebbe salvaguardare la qualità della comunicazione pubblicitaria in Italia, che è l'Art Directors Club, che ha lanciato una campagna per un codice più restrittivo di controllo, di autocontrollo sul sessismo in pubblicità. Ora, è giusto, è sacrosanto, capita un po' troppo a ridosso e un po' troppo in ritardo, quando poi noi fondamentalmente ci autoregolamentavamo, perché esisteva anche il codice di autodisciplina, esiste ancora. Ciò non toglie, e questo per rispondere alla collega precedente, cioè io non avrei mai pensato, non avrei mai fatto. C'era sempre qualcuno che lo pensava e lo faceva. Cioè, per esempio, le famose caramelline alla liquirizia per rifarsi l'alito, con un siciliano che diceva: io ce l'ho profumato l'alito, perché che avevate capito. Allora, da questa roba becera contro cui io mi sono battuto e con cui sono andato, vedi che ce la ricordiamo. Ce la ricordiamo perché la grande scorreggia che si fa in mezzo a un salotto, cioè questo non significa che sia lecito. Ecco, questo è esisterà gusto. Sempre un'area limacciosa in cui il non lecito viene lambito, anche perché poi se ne parla, si ricorda, fanno più eco le pubblicità che vengono censurate, tolte, su cui si discute rispetto a quelle che passano in maniera del tutto inerte. Questa è la maleducazione, come si usa dire adesso, pubblicitaria. Cioè, perfino Oliviero Toscani, il caro amico, l'ha sfruttata a suo modo. Sì, ma oggi si è rimesso i braghettoni dicendo mai più, non bisogna più far vedere queste cose. Sai, sono flussi. Io vorrei sapere se dobbiamo affidarci ai flussi emotivi dati dal momento in cui si vive, o se in realtà esiste una regola assoluta. Sentiamo Massimo, un ascoltatore. Massimo. Buongiorno. Eccomi. Ma io volevo dire solo questo. Secondo me il passaggio successivo sarà che i pubblicitari si renderanno conto che la gente guarda solo più la bella ragazza e non guarda più il messaggio pubblicitario. D'altra parte, come già diceva Gaber nella canzone Sinistra o Destra, un bel figone è sempre un'attrazione che va bene per sinistra o destra, cioè alla fine non importa più che cosa io devo vendere, faccio vedere la donna, ma il problema è che poi vedremo solo più la donna. Ma su questo non sono molto convinto. Paolo Napolitano, in realtà i pubblicitari non è che sono approssimativi, sanno esattamente come colpire, dove colpire, quali sono i risultati di una strategia. Ma insomma, non siamo così scientifici, sennò le cose andrebbero diversamente. Credo che le cose stiano cambiando, perché come dicevate voi, c'è proprio, probabilmente è questo momento storico, c'è un abbandono, c'è una mancanza di controllo. Quando vi dicevo a me non è mai capitato, non vuol dire che non capitasse a nessun altro, però ultimamente è più diffuso questo uso, certo. Il bisogno di colpire. Bisogna di essere sui riflettori, di in qualche modo fare effetto, no? Ma noi siamo un caso a parte, scusa Paola, rispetto ad altre pubblicità, che se ormai viviamo in un mondo in cui la pubblicità è globalizzata, basta aprire internet, se non le pubblicità di tutto il mondo. Ecco, noi in questo abbiamo una sorta di primato rispetto agli altri. Secondo me noi siamo un po' differenti, purtroppo, per una cosa. Prima di tutto ci manca quel senso di ironia intelligente, che perché non se ci offendiamo facilmente in Italia, cioè non ci offende come donne vedere delle tette fuori e delle cose volgari, e magari ci offendiamo per delle cose più ironiche che prendono in giro i nostri difetti. Oppure vedi, negli Stati Uniti lì ci sono molto più rigidi, sono molto più si mettono i mutandoni, come dici tu, e sono obbligatori. Io credo che in questo momento non sono per le regole, ma che faccia bene l'Art Directors Club a dettare delle regole, perché ho la sensazione che si stia svilendo un po'. Ecco, ma questo tipo di azione, Bruno Ballardini, deve partire dai pubblicitari, secondo te, che a un certo punto si dettano le regole, o in realtà è il clima generale di pressione oggi sul corpo delle donne? Diciamo, sono un paio d'anni che se ne parla molto, l'ho detto già, e vari flussi, e molte volte i flussi sono determinati anche da situazioni politiche, da situazioni sociali, è indubbio questo, è oggettivo, non è che possiamo dirlo, perché improvvisamente si riempiono le piazze, poi per un anno non se ne parla più, poi se ne riparla nuovamente, ma oggi il tema in realtà è caldo e va trattato. Deve essere l'opinione generale che su questo chiede una risposta. Guarda, io comincio a fare una trasmissione ho cominciato a fare da saranno 10 minuti che parliamo. Ho detto alle donne di dire la loro in questo caso e sono pochissime le donne che stanno chiamando, come se il problema in realtà artificialmente fosse stato suscitato, alle donne non gli interessi nulla. Non vorrei confermarmi in questa impressione. Ma io intanto vorrei rispondere all'ascoltatore che ha parlato della donna, del corpo femminile in un certo modo. Posso assicurare, tutti i colleghi concorderanno con me sul fatto che il corpo femminile non attira minimamente l'attenzione, cioè ormai siamo così saturi dalle copertine dell'Espresso fino ai manifesti di qualunque cosa con corpi femminili, fino ai calendari. Io vorrei conoscere chi ancora si attizza a guardare, cioè, la pubblicità. Non succede assolutamente niente, il massimo che succede è l'indifferenza. Ecco, quindi fino a, voglio dire, calendari per camionisti, quelli dove c'è un bel culo, una impronta di una mano e l'olio tal dei tali ti dà una mano, con questi doppi sensi beceri, allora, che poi ritroviamo anche nella pubblicità locale, regionale, anche non so, in Sicilia, nel sud del mondo, ma in altri posti ci sono delle ditte, dei padroncini che si fanno la pubblicità da sola. E noi non possiamo farci nulla, perché è il proprietario stesso che è ignorante, che si fa la pubblicità da solo. Ora, vabbè, lui lavora su vecchi sistemi basici, crede di lavorare su vecchi sistemi. In realtà è cambiato anche il camionista, nessun camionista più le immagini, gli abitacoli dei camion sono assimilabili a delle discoteche, nessuno attacca più, esatto, il giornale zozzo, esatto, fa ridere, hanno l'iPad dentro il camion e guardano quello che gli pare. Ora, ci sono due punti che dobbiamo tener conto, cioè uno è il fatto che non fa male ai pubblicitari darsi una regolata, questo va molto bene, è molto sano, e l'altro punto è che comunque continuiamo a stare su mezzi generalisti dove tutti vedono tutto e c'è sempre qualcuno che si può offendere. Sentiamo Paola Pavia, finalmente Paola, mi conforta una donna che chiama. Sì, io chiamo, pronto? Sì, l'ascolto. Io chiamo perché, a parte la pubblicità delle donne a seno nudo, ma anche le donne vestite, molto squallide dalla pubblicità, che l'uso che ne fanno della donna anche vestita, perché c'è sempre questa tendenza a mettere la donna come quella che perde la pipì, quella che le salta via la dentiera, quella che ha problemi intestinali, sempre la donna che ha questi problemi. Ma non tocchi questo problema che io... Sono ormai diventato oggetto delle prese in giro di tutti i miei colleghi, amici e amiche, perché galleggio in pubblicità sull'eiaculazione precoce, quindi ognuno si prende prima, in mezzo e durante, è un gran problema. Però insomma, ne sono involontario testimonial diventato. È proprio squallida, no. Che a mezzogiorno davanti alla TV, davanti a un pranzo, ci sia questa donna che puzza in ascensore. Quindi lei va un campano ancora avanti, non è tanto l'esplosione della sessualità ostentata, ma della miseria della donna in generale. Perfetto. Sì. Sembra che le donne siano soltanto incontinenti, devono prendere devono prendere lassativi tutte le mattine. In generale è l'uomo che puzza di più della donna, esattamente, insomma. Perché se c'è una puzza è un uomo che... Paola Napolitano, ritorniamo sempre su questo tema a noi molto caro, perché ogni volta che parliamo finiamo sempre lì. Ma no, ecco, com'è, nessuno non è caro per niente. Però sempre lì finiamo a parlare alla fine, perché mi rendo tutte le volte, ho parlato di pubblicità, c'è qualcuno che telefona a un certo punto, dice ancora peggio sono le pubblicità di tipo gastroenterico, ecco, in cui le donne si fanno vedere in delle loro funzioni necessarie, lecite, a cui è giusto che si pongano dei presidi o si pubblicizzino dei medicamenti, ma è brutto vedere la signora dell'ascensore che fa la puzza, o quella che ha le ascelle maleodoranti, o quella che deve mettere l'adesivo con la dentiera e via dicendo. Ma come si fa a bypassare il fatto che questi prodotti hanno diritto di essere pubblicizzati? Sì, tanto c'è modo e modo di fare le cose. Io sono convinta che si possa fare tutto con più garbo, però non me la sento di attaccare il lavoro di colleghi. E ti dirò che come donna, da quando sento queste pubblicità della famosa eiaculazione precoce, ho come un senso di soddisfazione, perché dico, beh, finalmente tocca anche a loro, come maschi, venire, viene alla luce, tra virgolette, sputtanati, cioè, su tutti i mezzi, visto che siamo sempre noi. Certo, ognuno ha le sue perdite, ma è giusto questo. Cioè. Ognuno ha le sue perdite, però anche in quello c'è sempre un modo... Tu dici, ci manca la cifra fondamentale questo, di trattare, guarda, questi argomenti. Che si riesce a fare una buona comunicazione di qualsiasi prodotto se riesci a colpire il cuore, i sentimenti della persona a cui tu vuoi vendere, no? La cosa che vuoi vendere. Allora devi riuscire a dire, la parola che viene usata tecnicamente è insight, devi riuscire a dire quella cosa che lui riconosce come vera. Se lo offendi, se la fai sentire come una poveretta che non va più in ascensore, secondo me non vendi bene i tuoi prodotti. Se mostri delle tette o sei volgare, non lo vendi. Però torniamo all'immagine del corpo. Teniamo conto che più delle volte viene usata per prodotti che sono destinati a maschi, non a donne. Melog, la realtà condivisa. Oggi sto cercando di far parlare donne su quello che è un problema molto attuale, quanto le donne sentano offese, vilipese, ma soprattutto impropriamente usate come adescamento per uomini furiosi, per uomini rozzi, quindi collegate a prodotti pubblicitari, negli spot, nella pubblicità, nei giornali, in generale, in generale nell'advertising riferito appunto a prodotti da consumare, che molte volte nulla hanno a che fare, nessun nesso con la donna nuda, con la donna ammiccante. Aggiungerei, fra parentesi, mestamente, se mi è permesso, che vedo anche una percentuale notevole di uomini ammiccanti, nudi, sessualmente espliciti in molte pubblicità. Ancora non ho visto nessun uomo che per questo si è sentito offeso, ma probabilmente perché ancora sono in percentuale minore rispetto alle donne. Velocemente, finalmente hanno chiamato un po' di donne. Deborah. Buongiorno, sono Deborah da Udine. Dunque, io ho deciso che quando vedo delle pubblicità con donne o svestite o con doppi sensi, sempre riguardo alle donne, non compro il prodotto. È una decisione che brava. Ho preso. Va bene, questa mi sembra la cosa più saggia. Boicotta il prodotto da cui si sente in prima persona offesa. Mi sembra il più concreto e il più sano atteggiamento. Ma trova che siano molti questi prodotti, ci siano preponderanti? Beh, non guardo molta pubblicità, però comunque una certa percentuale c'è, e di quelli io trovo il paradosso che siano i giornali femminili quelli più infarciti di oltraggio al corpo femminile, però questo è il mio punto di vista. Sì. Che non, sono giornali che poi gli uomini non guardano, che senso ha far vedere le natiche di una donna per pubblicizzare un lassativo? Non si capisce bene. Comunque, Andrea. Sì, buongiorno. No, io ho sentito che parlavate dei calendari e allora mi sono così, ho detto che non esistono più i calendari da camionista. No, e invece devo... Ah, mi smentisci? No, perché noi facciamo un calendario stupendo delle Dolomiti tutti gli anni, le facciamo proprio noi le foto, professionisti, facciamo le foto veramente stupende. Ma che c'entra anche i camionisti? Calendario per camion? No, perché noi vendiamo prodotti per i camionisti, sì. e quello stupendo delle Dolomiti e quello con tutte le varie modelle slovene, moldave, eccetera. E niente, quando io arrivo in un cantiere, in una cava, in un magazzino, si accapigliano letteralmente, capisce? Delle Dolomiti non gliene porta niente nessuno. Zero. Io all'inizio ero anche imbarazzato. Dicevo, ma chi è che ancora oggi si mette il calendario con le donne nude? Guardi, è stato un mondo, una scoperta. Sì, però io immagino che quello sia ormai, ci sia un senso di legame affettivo, è qualcosa di vintage che uno lo prende come se trovasse un calendaretto da barbiere, quelli profumati con le donne nude, lo terrei come un oracolo perché è qualcosa che ricorda il passato. Tiziana. Sì, buongiorno, chiamo da Firenze e niente, volevo dire la mia opinione un pochino più originale, ritengo, rispetto l'esprima, a quello senza che ho premessa. Sentito finora. Sì. Niente, praticamente io penso che tutto quello che sta accadendo, soprattutto negli ultimi 20 anni nella pubblicità, è una scelta molto femminile, perché le donne si sono rese oggetto proprio, si sono fatte strumentalizzare e gli piace perché è una forma facile di protagonismo, di sentirsi, come dire, apprezzate, e l'unico modo per sentirsi apprezzate facile, poco intelligente, proprio quello di mettersi in mostra. Lei lo farebbe? Lei poserebbe per una pubblicità scollacciata? No, condivide questo senso di esibizionismo femminile? Io penso che, ribadisco il mio concetto, penso che questo cattivo gusto sia molto dovuto alla responsabilità delle donne. Quindi le donne, diciamo, sono complici di chi le stenta. Sono complici, sicuramente. Dal suo punto di vista. Anna. Sì, sono Anna da Brescia, sì. Spengo la radio. Ascolti Nicoletti, anch'io con queste pubblicità esasperate, in televisione queste ragazze che fanno corona a qualsiasi programmino con questo sederino spinto in fuori fino all'eccesso, insomma, queste ragazze sono carine, ho capito, però insomma la pubblicità è diventata esasperata. Poi io ho delle nipotine meravigliose di 18-20 anni, carine, alte, però magari sono più rotondette e quindi vanno in crisi e quindi hanno i complessi, perché queste qua sono perfette, a parte questo insomma. Nicoletti, senta, anche per i maschi, io sento delle pubblicità ultimamente, io ho figli maschi e femmine, anche dei maschi trattati un po' come dei tonti, ripresi continuamente, hai capito? Con voci bisbetiche, anche i ragazzi, i nostri maschi, lasciamoli in pace anche. Sì, vabbè, adesso non è che non si possa ironizzare, non è che diventa tristissima, diventa la pubblicità del bollettino dell'oratorio, se non giochiamo un po' anche sugli aspetti paradossali. Bruno Ballardini. Ma io vorrei integrare. Ma tutti buoni, improvvisamente siamo un popolo. Ma sai che noia sarebbe. Sì, però ecco, la buona pubblicità esiste, la buona pubblicità esisteva, poi è subentrata quella che io definisco la stupidità pubblicitaria, quella nell'epoca della sua riproducibilità tecnica, che era anche il sottotitolo del mio libro, che consiste nella mandare messaggi che non sono pertinenti. Quando Paola, la collega pubblicitaria, prima parlava di insight, cioè toccare il cuore del target. Toccare il cuore non è toccare il cuore è una parte, ma deve essere toccare l'insight sarebbe toccare un argomento pertinente, perché il nostro primo dovere è quello di informare, non persuadere. Insomma, qual è la procedura per cui oggi noi vediamo qualcosa che ci offende? Perché le responsabilità adesso sono distribuite fra le donne che sono complici e accondiscendono, come dice l'ascoltatrice, i pubblicitari sono biechi e cattivi. Mi spieghi in due parole com'è il processo? È una farsa, non è neanche una commedia. Perché noi facciamo i conti senza l'oste, cioè i pubblicitari assumono sulle loro spalle il peso di una croce che non gli appartiene del tutto, perché quello che facciamo noi dipende dalle marche, noi siamo dei biechi esecutori, cerchiamo di farlo in modo intelligente, creativo, però molto spesso se ci viene detto di fare una certa cosa possiamo insistere, oltre un certo punto la marca subentra oppure se la fa da sola e noi perdiamo il cliente. Quindi il marketing, quello che è nascosto dietro le quinte, è quello che fa la fa da padrone. D'altra parte poi si è montato un caso ultimamente, perché io credo che una parte di tutta questa faccenda la responsabilità ce l'abbiano i giornalisti, perché vanno a mode. Adesso c'è la moda del sessismo sui giornali, fra una settimana non ci sarà più sessismo, mentre c'è sempre stato e continuerà a esserci nella stessa percentuale. Siamo un po' vittime di una disinformazione e di una manipolazione modaiola fatta all'interno della lobby dei giornalisti. Qualcuno mi dice, ma di cosa stiamo parlando, se esiste ancora il calendario Pirelli ogni anno? Cioè, ma c'è di peggio. Un grande spostamento di giornalisti per andare a vedere un calendario fatto di donne nude. Ma quello è ancora artistico, cioè l'ascoltatore che prima parlava dei suoi calendari, ma c'è al peggio non c'è mai fine, c'è perfino una ditta famosa di casse da morto, non facciamo i nomi, però ogni anno ruba questo calendario con le modelle, sì. Sempre dell'est ovviamente, sul paradosso che vanno dentro le casse da morto. Melog, la realtà condivisa. 800240024, tastiamo il polso al pubblico sul sentire rispetto all'uso e l'abuso del corpo della donna in pubblicità. Claudio, velocemente. Ma guarda, buongiorno Nicoletti, io lavoro nel campo del marketing da ormai 20 anni e ne ho 40. E quello che posso notare è che nella memoria dell'uomo, ma studi lo stanno dicendo, non per questo, studi dicono che la donna rimane per più tempo nella memoria dell'uomo. La nota pubblicità del sigillante è un esempio. Tutti si ricordano il sigillante pubblicizzato appunto da questa donna. Purtroppo io no, però se me lo dici non ho motivo. Bruno Ballardini. Posso dire che non è vero. Allora, prima di tutto deve portare quali documenti e quali ricerche. Io ho avuto modo di lavorare con i più grandi esperti di marketing per tanti anni. Bisogna citare le fonti. Secondo luogo, quel sigillante funzionava molto bene perché era l'unica pubblicità sui sigillanti, non diciamo sciocchezze. Non c'entrava la donna, niente. Non c'entrava la donna. Allora, andiamo avanti. Annalisa Cattani, buongiorno. Buongiorno. Annalisa Cattani è un'artista, è curatrice dell'Accademia di Bologna, Ravenna e Rimini, collabora con lo IULM di Milano, ha scritto un libro, Pubblicità e Retorica, Meccanismi Argomentativi della Persuasione, Lupetti Edizioni. Ma si può dire qualcosa di non banale aggiungere rispetto al dibattito che ormai si fa in ogni dove, sulle pubblicità, sul corpo delle donne? Poi vedo che il pubblico della radio alla fine non va oltre quelli che sono i luoghi comuni più ribaditi. Esiste veramente un problema? È un problema artificialmente costruito per dare ancora più evidenza a quello di cui si tenta di prendere distanze? Allora, secondo me la cosa fondamentale, il problema più grande è l'analfabetismo per immagini. Il problema grande che oggi abbiamo non è tanto l'analfabetismo verbale, che non è stato superato ma comunque ampiamente ridotto, ma è l'analfabetismo per immagini. Questo lo vedo attraverso le mie ricerche, attraverso anche l'insegnamento. Cioè, non si percepisce totalmente, non si ha la concezione di ciò che le immagini ci dicono. Indubbiamente la pubblicità è specchio e matrice della società e ciò che chiamiamo femminilità sicuramente è uno spazio sociale che è anche creato dal discorso mass mediatico. Il problema è che noi non riusciamo a capirne quali sono tutte le ricadute e soprattutto da dove deriva, perché la donna è una lavoratrice non professionista al servizio della bellezza. Quindi questo è il problema più grande, che è stata ridotta l'identità femminile ad una lavoratrice non professionista che fa parte di una comunità a parte, la comunità delle donne, che deve prendersi cura del proprio corpo piuttosto che della propria mente. Questo fondamentalmente. Dottoressa Cattani, ma esiste un grande vecchio che questo ha deciso? O tutti sì, siamo noi complici? Complici, siamo partecipi a questa deriva dell'estetica, della considerazione della donna, e quindi nessuno, o ci stracciamo tutte le vesti, o tutti diciamo il mondo va così. Ma fondamentalmente il grande vecchio esiste, e nel 1910 la rivista My Weekly, in particolare americana, crea per la prima volta, tra le prime, questa comunità di fruitrici attraverso la propria rivista, facendo la pagina con le lettere al direttore, che di fatto ha creato questa sorta di familiarità con i mass media, che da un lato è anche positiva, ha creato anche degli spazi di confronto, ha creato anche degli spazi di conforto, se vogliamo. Nello stesso tempo ha creato questo discorso in media stress nella cosa, in cui si parla direttamente alle donne come se fosse una comunità di amiche, però un artificial sister rudio, chiamo nel mio libro, una sorellanza artificiale che ha... Ma artificiale è anche la sorellanza delle indignate, però, mi scusi. Esatto, è proprio una sorellanza, ha creato da un lato la sorellanza artificiale di queste donne viste per sineduc, una parte per il tutto, ma quando io dico È il modello la donna perfetta, questa follia della donna in pessi. Sì, la donna perfetta nei pessi perfetti. No, ma io alludo al film in cui c'era una follia generale, in cui tutti gli uomini sfigati portavano le loro mogli da una signora folle che le condizionava con strumenti elettronici, diventando delle bamboline esatte come quelle della pubblicità, accarezzevoli, amorevoli, brave in cucina, sessualmente sproporzionate, tutto. Assolutamente, e sicuramente questa mostruosità è stata fatta e va avanti, ma come la si argina? Cioè, non è che creando delle proibizioni generali la si argina con l'educazione, soprattutto indicando come viene infranta la regola di un buon rispetto della donna. Per esempio, io in classe all'accademia, mi viene in mente, quando faccio vedere una donna in pessi, cioè una donna descritta solo col proprio ventre, chiedo: ma cos'è questa pubblicità? È una donna? Faccio: no, non è una donna, donna, è un pezzo di una donna, cioè non viene visto questo piccolo elemento, questa grammatica del corpo femminile non viene più vista perché è stata normalizzata, e questo passa a lungo andare, quindi probabilmente è necessario ma trova una maniera migliore per pubblicizzare un lassativo in cui passa questa sorta di vermone e scioglie la pietra, però è efficace perché noi vediamo tutti le pancine delle signore che si illuminano e capiamo che funziona. Bruno Vallardini. Ma io le considerazioni che ho sentito fare fino adesso sono sempre le solite, sono quelle fatte dal di fuori della pubblicità, cioè fatte a posteriori con analisi sulla retorica, su tutti eventuali risultati creativi. Quindi c'è il grande vecchio. Mentre dire. No, non c'è nessuno, cioè il grande vecchio, per modo di dire, esiste una un input iniziale dato dalle marche. Cioè, le marche questo vogliono, non sono innocenti. Le marche decidono quello che deve uscire in pubblicità. Se qualcuno del marketing, ad esempio, viene a dirci: ah, ma c'è poca creatività, ma grazie, sono stati loro a tagliarci le gambe, perché molto spesso i pubblicitari sono più intuitivi, più creativi e più intelligenti degli uffici marketing, che invece pensano alla vendita bieca. Ma non hanno l'ultima parola, non decidono loro. No, perché poi alla fine, voglio dire, quando noi facciamo una battaglia con un colosso americano dei beni di largo consumo per anni, per convincerli del fatto che c'è qualcosa di razzista nel fatto che i due bambini che si confrontano su diverse abitudini di lavaggio, uno deve essere biondo, vincitore perché è americano, e l'altro, siccome siamo in Italia, la pubblicità esce con il bambino con i capelli neri, quindi mediterraneo, quello che puzza, il perdente. Noi ci siamo scagliati contro il colosso, ma poi abbiamo perso perché ci ha imposto di far uscire fuori il bambino vincente biondo. Dopo molti anni finalmente hanno capito che non funzionava, perché ovviamente anche a livello, come si dice, subliminale, noi manteniamo la nostra identità culturale e la difendiamo, ma dobbiamo fare i conti con le marche. Fermiamoci un attimo, mi sembra Ballardini ci ha dato un ulteriore spunto per continuare questo discorso. Abbiamo affrontato il tema, non lo abbiamo sviscerato perché è impossibile sviscerarlo. Lo abbiamo lambito, ma di questo siamo contenti. A domani.